Viva Voce con Alessandro Milan. Le 9 e 8 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 0024, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Dunque, ieri c'è stato l'incontro tra governo e parti sociali. Venerdì il decreto con le misure adottate, insomma, sono i giorni decisivi per l'intervento del governo per contrastare la crisi economica, con alcune novità ormai chiare sul fronte degli aiuti a famiglie e gli interventi per le imprese. Sulle famiglie arriva la social card, ne abbiamo parlato per un po' di tempo, e ora parte la carta prepagata da 40 euro al mese per comprare beni di prima necessità. Andrà ai pensionati over 65 che hanno un reddito non superiore ai 6.000 euro e anche le famiglie che hanno figli da 0 a 3 anni, sempre con un reddito fino a 6.000 euro. Arriva il bonus familiare con soldi contanti tra 150 fino a 800 euro, diciamo, con modalità ora da chiarire, ma insomma per i nuclei sempre familiari con redditi bassi e col principio che più si hanno figli e più si ha un bonus che può aumentare. C'è il blocco delle tariffe, autostrade, bollette di gas, elettricità, ferrovie. In arrivo anche misure per calmierare i mutui, interventi di urgenza per chi non può pagare le rate. Insomma, tanti elementi di cui discutere, su cui discutere. I sindacati hanno mostrato abbastanza soddisfazione, la CGIL no, ha detto lo sciopero del 12 dicembre è confermato. Oggi Epifani farà anche una conferenza stampa alle 15, perché per Epifani è stata un'esposizione generica, insufficiente, non si capisce bene quanti soldi ci sono e ci vorrebbe qualcosa di più. Di questo vogliamo parlare, insomma, delle misure in arrivo per famiglie, per le imprese, per arginare la crisi economica. Ne saluto il segretario generale della UIL, Luigi Angeletti. Buongiorno Angeletti. Buongiorno a lei. Così come l'onorevole Giuliano Cazzola, del Popolo della Libertà, vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera. Benvenuto Cazzola. Ben trovato, lei e Angeletti e gli ascoltatori. E allora saluto anche Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo. Eccoci qui. Buongiorno a voi. Alle 9:11 minuti parliamo dunque delle misure in arrivo per le famiglie, per le imprese. 800 24 0024 per intervenire in diretta. Angeletti, lei ha già mostrato una discreta soddisfazione dell'incontro. Le chiedo, come provocazione, il manifesto titola "Il Cavaliere della Mancia" nel piano anticrisi, una manciata di euro per gli indigenti, un po' di miliardi di opere pubbliche, insomma poca cosa. È poca cosa oppure lei è soddisfatto? Ancora non sappiamo quant'è, e quindi ovviamente mi sembra prematuro dare un giudizio conclusivo. Bisogna solo dire questo, che la cosa più importante adesso è cominciare nella direzione giusta, cioè fare in modo che ci siano investimenti e un aiuto ai consumi, soprattutto per evitare di perdere troppi posti di lavoro, che è il vero problema, quantomeno è il problema più grave. Non tutti pagheranno le stesse entità di questa crisi. Quelli che di cui ci dobbiamo prima di tutto preoccupare sono coloro che rischiano di perdere un posto di lavoro e che pagherebbero ovviamente il prezzo più elevato. Per far questo bisogna tenere su il tono dell'economia facendo investimenti pubblici e aiutando i consumi, perché in una nostra società più si consuma più si produce, quindi più le cose vanno meglio. E questa è la cosa fondamentale, sì. Certamente più soldi si mettono in questa direzione meglio è, più gli effetti sono migliori, però credo che ci siano dei limiti più o meno oggettivi alla quantità di soldi che un paese che, come il nostro, che ha un sacco di debiti, può mettere a disposizione. L'importante è che si mettano tutti quelli che sono. Lei dice sostanzialmente sostenere i consumi, come ha detto Berlusconi. Lei dice forse la strada però è un po' diversa, cioè con i soldi e non con l'incentivo all'ottimismo, insomma, forse. No, posso tradurla, certo, così. È ovvio, per consumare nei supermercati purtroppo l'ottimismo non viene pagato, ci vogliono soldi, quindi come dire, è ovvio che non bisogna deprimere le persone, perché non servirebbe a nulla. però per aiutarle concretamente dal punto di vista economico occorrono soldi. Senta, le chiedo, lei ha puntato l'accento su un tema interessante, vedo che già anche i messaggi, anche nel nostro Dietro la Notizia con il nostro direttore Gianfranco Fabi, insomma molti già lo hanno scritto via sms, ma vincolare la social card, gli interventi al reddito, no? Questa fascia di reddito 6.000 euro, molti dicono, guardi, lo dice anche oggi Vittorio Feltri su Libero, attenzione perché insomma vincolare al reddito, sappiamo che purtroppo siamo un popolo che abbiamo questo vezzo e vizio dell'evasione fiscale, esatto, no, e dunque questa è una cosa fondamentale. Questo è l'unico paese, non so gli altri, ma in Italia è così, nel quale per stabilire se uno è povero o è ricco non bisogna guardare la dichiarazione dei redditi, perché purtroppo è assolutamente menzognera. Bisogna guardare altre categorie. Ora, tipo il fatto che uno paga le tasse perché è costretto a farlo avendo il sostituto d'imposta. Per le pensioni, la cosa che bisogna fare è guardare le pensioni che si prendono e se uno ha delle proprietà, punto. Per quanto riguarda i redditi invece normali da lavoro, è evidente che in Italia se i lavoratori dipendenti appaiono più ricchi perché pagano quasi tutte le tasse rispetto alle loro retribuzioni. Quindi bisogna distinguere tra lavoratori dipendenti e lavoratori non dipendenti. E non c'è da fare, non è un problema sindacale, è un problema oggettivo. Questo è un punto interessante. Cazzola, lei che ne pensa? Potrebbe essere uno scoglio questo, vincolare tutto al reddito, a questi 6.000 euro per ora? È questa, diciamo, la soglia, per esempio, per avere la social card? È un problema, essendo un popolo di evasori? Guardi, io però non vedo una soluzione alternativa. Tutte le prestazioni assistenziali sono legate al reddito, a partire dall'integrazione al minimo delle pensioni. Faccio notare che 6.000 euro sono molto pochi e sono all'interno della no tax area, quindi si tratta tra l'altro di non contribuenti, insomma di persone che sono escluse dalla fiscalità generale, no? Perché la no tax area arriva credo fino a 7.500 euro per i pensionati e 7.000 per o giù di lì per gli altri, per le altre persone. Certo, il problema c'è, ma sinceramente io non vedo come si possono trovare delle altre soluzioni. Si può diversificare questo è già stato fatto, lavoro dipendente e lavoro autonomo, ma siamo nel campo sostanzialmente dell'inclusione sociale, perché chi ha un reddito diciamo inferiore a 6.000 euro ovviamente è una persona che è un evasore totale o che si colloca in un'area di indigenza. Senta, ma dare la social card oppure dare un contributo a chi ha appunto un reddito di 6.000 euro, per quel che riguarda il bonus invece il reddito ovviamente aumenta, per esempio faccio degli esempi concreti così ci capiamo, per chi per il bonus da 150 a 800 euro va a chi è una coppia senza figli, dunque due persone, il reddito annuo è di 12.000 euro, per chi è invece tra tre, un nucleo familiare di tra 3 e 5 persone, dunque non so, una coppia con 2.000 pro capite. Sì, certo, per chi invece non so, a 3-5 sono una coppia con due figli, si arriva a 17.000 euro come tetto di reddito annuo. Allora diciamo diventa una misura che comincia ad essere sostanziale. Ma secondo lei queste persone, una volta che dovessero incamerare questo bonus, una tantum cash, è questa la strada per riavviare i consumi oppure se li tengono in tasca? Ma perché guarda, insomma, io credo che la strada per avviare i consumi si trovi un po' in tutti questi provvedimenti che vengono presentati, perché ci sono misure che riguardano le tasse, ci sono misure che riguardano i mutui, c'è una serie di misure che ha un raggio molto largo, almeno a quanto si vede oggi. Certo, comunque si va incontro a una fascia di popolazione che è quella che non arriva alla quarta settimana, ecco, ovviamente se sono contribuenti onesti. È sono misure in larga parte inclusive e che hanno delle priorità, diversamente per esempio dalla proposta fatta dal PD e sostenuta in larga misura anche dalle organizzazioni sindacali di detassare la tredicesima, anche se poi la tredicesima sarebbe stata detassata entro una fascia di redditi medio-bassi. E tra l'altro faccio notare che intervenire in intervenire con queste misure si evita con misure sostanzialmente che o riducono delle tasse o danno delle risorse fresche, in buona sostanza, perché la social card è come se fosse moneta, no? Si evita la tagliola della progressività dell'aliquota fiscale. Allora, io sul tema delle tariffe vorrei coinvolgere Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo, visto che questa è un'osservazione che già molti ci fanno. Ma come? Le tariffe, per esempio l'Antitrust ha detto che le tariffe dovranno scendere, visto che sta scendendo finalmente il prezzo del petrolio, che è andato alle stelle. Che vuol dire blocchiamo le tariffe al rialzo? Dovrebbero scendere invece, sì, le tariffe? Vero, no. Dovrebbero scendere e scenderanno. No. Sì. Questi provvedimenti del governo mi pare che, premesso che non si può fare della facile ironia su un aiuto anche piccolo a famiglie molto bisognose, e quindi qualunque intervento di questo tipo è comunque da prendere seriamente, perché sappiamo che la povertà, e di questo stiamo parlando in Italia, è una delle piaghe, quindi incide sicuramente anche sui consumi, e sono quelle fasce che sono state più colpite dall'aumento dei prezzi. Quindi, premesso ciò, qui non mi pare che si sia capito che in questi ultimi 30 giorni il mondo è cambiato e anche l'Italia è cambiata. Cioè, qui siamo passati nel giro proprio di un battibaleno in una situazione di prezzi in salita, di allarme inflazione, di occupazione stabile o addirittura in salita, ad una situazione di prezzi in discesa, addirittura in alcuni casi crollo o già avvenuto imminente, e disoccupazione o rischio disoccupazione in forte salita. Questo è un altro mondo, quello in cui ci troviamo oggi rispetto a un mese fa o a due mesi fa. Ecco, queste misure mi sembra che siano un po', arrivano un po' fuori tempo massimo, perché parlare adesso di blocco delle tariffe, quando abbiamo la benzina che è scesa del 30%, gas e luce che probabilmente tra un mese avranno anche loro delle forti riduzioni, prezzi in generale fermi o probabilmente in discesa, questo l'Istat poi ce lo dirà nelle prossime settimane, ma sappiamo che la tendenza ormai anche sotto Natale è quella di sconti che non sono più nemmeno offerte, sono proprio c'è un gelo, ci sarà poi anche nei prossimi mesi un gelo dei prezzi. Ecco, in questo contesto parlare di blocco delle tariffe piuttosto che di rinegoziazione dei mutui, tutte cose, o di riduzione delle accise come anche è stato proposto, tutte cose che, intendiamoci, noi stessi abbiamo fortemente chiesto e voluto fino a due mesi fa, credo che oggi si rischi di arrivare oltre il limite massimo. Senso che non è oggi quello. Qual è oggi il problema? È quello che diceva Angeletti, il rischio oggi è la disoccupazione, è la perdita di reddito, ma non per l'aumento dei prezzi, ma per la perdita del lavoro, precario o non precario che sia. E allora le misure è lì che devono essere, secondo me, prese. Si può aiutare la famiglia più povera, più disagiata, ma bisogna mettere da parte risorse ingenti per aiutare chi perderà il reddito in tutto e in parte a continuare a vivere, a fare acquisti, a consumare, e quindi a mantenere l'economia nei limiti del possibile a un livello decente, e anche a far fronte ai debiti che sono stati contratti, mutui piuttosto che altri prestiti, nel corso dei mesi. Questo è tutta un'altra ottica. Da questo punto di vista, Angeletti, Epifani, la CGIL dice c'è il rischio di 400.000 posti di lavoro che si perderanno da qui a dicembre. Dunque, da qui a dicembre vuol dire entro un mese, insomma, drammaticamente. E lei, insomma, riguarda questa cifra, che dice? Purtroppo non si possono fare previsioni serie, realistiche. Lo scenario è esattamente quello che è stato dipinto dall'interlocutore prima. Noi dobbiamo semplicemente aprire un ombrello. Non sappiamo quanta pioggia verrà giù e quanto sarà forte e per quanto durerà. Quindi più l'ombrello è robusto, più è largo e più proteggeremo le persone. E torno a ripetere che la vera questione fondamentale in una politica che non so se sarà deflattiva, ma sicuramente è esattamente il contrario di quella che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni, la deflazione nella nostra generazione non l'ha mai conosciuta, non sappiamo nemmeno com'è fatta, nessun italiano, anzi nessuno cittadino del mondo sa come si vive in un mondo nel quale i prezzi scendono e i posti di lavoro si perdono. Quindi è questo lo scenario al quale ci dobbiamo preparare, con la speranza che non avvenga e con la speranza che, se dovesse avvenire, sia di breve durata e di scarsa intensità. Ma se c'è una politica seria, veramente responsabile nei confronti delle persone, è quella di proteggere dal pericolo peggiore, perdere il reddito e perdere il posto di lavoro. Senta, lei, secondo lei la CGIL ha fatto un errore, fa un errore nel confermare lo sciopero del 12 dicembre? Mi sembra che poi la finisco qui, che la CGIL abbia deciso questo sciopero in un altro senso, in un altro mondo, in un altro contesto, già all'inizio di settembre. Cioè, mi scusi, è andata via un po' il cellulare. Vediamo di recuperarlo, perché era, mi sembra di capire che Angeletti abbia detto che è stato deciso questo sciopero all'inizio di settembre, quando c'era un altro mondo, un altro contesto. Cazzola, credo che, insomma, chiedere a lei se la CGIL abbia fatto un errore o faccio un errore nel confermarlo, insomma, una risposta un po' retorica, ma la CGIL ha lanciato questo allarme sui 400.000 posti di lavoro. Angeletti dice non si possono fastidio, però il tema c'è, voglio dire, molte persone purtroppo lo hanno già perso, lo stanno perdendo, e sono le fasce più deboli dal punto di vista lavorativo, cioè in genere sono le donne e gli immigrati. Guardi, il problema indubbiamente c'è e ci sarà, tra l'altro, non solo per i precari, ma ci sarà anche per molti lavoratori assunti a tempo indeterminato, perché si tratta di una situazione molto, molto grave, molto seria sul piano economico. Però io trovo sbagliato fare delle previsioni di questo tipo, tra l'altro non sulla base dei dati di fatto, ma come dicono loro, quelli della CGIL, se li si interroga, come rischio che siano, come previsione di un rischio calcolato con una percentuale assolutamente teorica su quello che è l'intero ammontare dei lavoratori precari. Io credo che se noi ci trovassimo di fronte a un fenomeno di questo genere, come dato reale, noi avremmo delle situazioni di allarme sociale visibile e, tra l'altro, avvertibile da tutti, no? Tra l'altro, credo che 400.000 se ne vanno nel giro di un mese senza dire niente a nessuno. Credo che lei, ma tra poco ritorno, abbia anche sposato un po', almeno su una linea, la linea Epifani, quella della questione della Bossi Fini. Ma ci ritorno, visto no, che abbiamo. Questo lo sposa, io sono assolutamente convinto di questo. Di bloccare la Bossi Fini, ma tra poco ci arriveremo. Siccome abbiamo recuperato Angeletti, mi è crollato il cellulare sulla CGIL. Me la deve ridire. non so dove. No, voglio dire, secondo lei la CGIL ha sbagliato perché l'ha deciso in un altro mondo, questo abbiamo capito? Ah sì, perché quando ha deciso questo sciopero era un altro mondo, all'inizio di settembre lo ha deciso per valutazioni che credo che sia la CGIL che deve spiegare. Oggi, nel mese di settembre, di ottobre, il mondo, non l'Italia, il mondo è completamente cambiato. Abbiamo davanti a noi una crisi di cui nessuno conosce seriamente le dimensioni, la durata e le conseguenze. E quindi l'unica cosa che possiamo fare è quella di fare delle politiche economiche che cercano, nei limiti delle risorse disponibili, di proteggere le persone. E sperare che queste siano efficaci e che la crisi sia lieve e di breve durata. Però, visto che, voglio dire, l'unità sindacale credo ancora ci sia, a meno che lei mi voglia dire che no, è un po' traballante da questo punto di vista, voglio dire, lei parla con Epifani, insomma, che le dice? Perché confermano lo sciopero? Che ne pensa lei? Cioè, lei gli dice di desistere? Non lo so. Lei ha preso questa decisione da sola, non ne abbiamo mai discusso, e questo ovviamente non è stata una cosa positiva. L'unità sindacale c'è quando ovviamente si hanno più o meno gli stessi obiettivi. E la fermiamo qui, nel senso non ci sono più gli stessi obiettivi, me lo dica lei. Adesso devo essere sincero. Gli obiettivi a parole sono gli stessi, ma la tattica che si usa certe volte contraddice gli obiettivi. Che motivo adesso c'è di litigare con tutte le associazioni delle imprese, la Confindustria, la Confcommercio e gli artigiani? qual è il motivo? Non lo vedo, dobbiamo anche cercare di trovare, di fare dei patti, di fare degli accordi sui sistemi contrattuali, sugli enti bilaterali per proteggere le persone, per cercare, quando è possibile, addirittura di dare aumenti salariali. Io capisco gli aspetti politici col governo, ma il vero conflitto tra noi e la CGIL è sulla politica contrattuale, quindi sul rapporto con il sistema delle imprese. E oggi il paese e quindi i lavoratori hanno bisogno di risposte, di soluzioni, non banalmente e semplicemente di denunciare i mali che abbiamo, perché quelli li sappiamo, anzi le persone le sanno meglio di noi, ma ciò che si aspettano da noi è delle soluzioni concrete. E allora 800 24 00 24 per intervenire. Subito dopo la pubblicità ovviamente ripartiamo anche con gli ascoltatori, con Martinello, con Cazzola, con Angeletti. Molti proprio insistono su questo punto dell'evasione fiscale, che è un tema molto molto sentito in Italia, perché purtroppo l'evasione fiscale c'è ed è ad alti livelli, come Anna che ci scrive da Rivoli e dice purtroppo lavoro nell'indotto auto, sono in cassa integrazione, dunque oggi sono qui ad ascoltarvi, e ci dice la vergogna vera è proprio l'evasione fiscale, e dice anche Berlusconi che li protegge. Questa considerazione di Anna. Claudio da Lucca, buongiorno. Pronto? Sì, dica Claudio. Buongiorno, stavo ascoltando, prima di tutto complimenti per la trasmissione e complimenti anche a lei. Beh, grazie, dica. Stavo ascoltando i suoi ospiti la trasmissione e mi interessava dire questo. Secondo me non è corretto l'ipotesi di intervento che ha studiato il governo e che è appoggiato un po' da tutti quanti, quantomeno i sindacati eccetera, in quanto si rischia di dare una piccolissima cosa per una malattia molto grande. Il dare 150 o 300 euro una tantum, lì si può alleviare, si può dare un po' di incremento per quello che riguardano i consumi, però la malattia rimane, perché bisogna partire dal dato di fatto che c'è questa crisi, e è una crisi internazionale. La cosa più importante secondo me da fare è proteggere le persone che possono perdere il proprio posto di lavoro. Sì, come insomma la questione degli ammortizzatori sociali, per esempio. Ma guardi che è previsto ovviamente, io ho citato gli aiuti, quelli concreti alle famiglie, per esempio per gli ammortizzatori è prevista almeno nel piano, poi vedremo venerdì, l'estensione degli ammortizzatori sociali anche a lavoratori, ai lavoratori precari o flessibili. Poi lo vedremo venerdì nel concreto. Comunque lei dice, Claudio, è quello l'intervento strutturale più importante. E questa è la cosa fondamentale, perché i giovani... E io ho due figli e entrambi si sono conquistati una buona posizione di lavoro grazie alle esperienze che hanno fatto con i contratti di formazione eccetera eccetera. Certo, no, ma è chiarissimo. Andiamo a Roberto d'Alessandria. Intanto voglio salutare, ci ha raggiunto anche lo ringrazio insomma, perché sono serate di tavoli, di concertazione, di incontri e anche mattinate difficili. Ringrazio Agostino Megale, segretario confederale della CGIL, che ci ha raggiunto. Buongiorno Megale. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora andiamo prima, c'è con lei Angeletti e Cazzola e Martinello. Saluto, intanto vado da Alessandria, da Roberto. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti. Dica. Il mio intervento è mirato a capire la funzione dell'authority per l'energia, perché noi avevamo una tariffa in azienda bloccata. L'authority si è svegliato un mattino e ha pensato di aumentare il costo dell'energia del 20%. L'alternativa è fare i turni, lavorare la notte per risparmiare. Fatalmente noi siamo un'azienda che fa il turno di giorno, non possiamo pensare di chiudere di giorno e lavorare di notte. Questo agevola le grandi aziende, sì, che fanno i tre turni, ma credo che in Italia non ci siano solo aziende che fanno i tre turni, ci sono anche aziende come la mia che lavora nel turno. Sì, guardi Roberto. Di conseguenza io vorrei capire il blocco delle tariffe se poi verrà influenzato ancora dall'authority, perché l'authority ci ha applicato un aumento del 20%. Beh, e non è uno scherzo. Vediamo, Martinello vuole rispondere, altro consumo a Roberto e Alessandria. Se... Dunque, non conosciamo ancora i dettagli, sì, di questo capitolo del pacchetto che riguarda il blocco delle tariffe. È ovvio, come dicevo anche prima, che il blocco non potrà mai essere in discesa, e oggi, per la verità, rischia di essere veramente un palliativo, perché le tariffe, ma questo l'ha già preannunciato l'authority, a partire da gennaio, adesso la data precisa non la sappiamo, sicuramente che le diminuiranno. Queste diminuzioni sono legate all'andamento del prezzo del petrolio, che nei mesi scorsi aveva fatto alzare le tariffe di luce e gas e adesso le farà diminuire. Quindi, diciamo, bloccare in questo momento le tariffe serve abbastanza poco. Se posso aggiungere una battuta, sì, sulla questione degli ammortizzatori sociali. Attenzione, occuparsi dei disoccupati o di chi si troverà in situazioni familiari drammatiche per effetto della crisi economica non è solo mettere dei soldi per gli ammortizzatori sociali. Ci sono una serie di misure, ne cito una ad esempio che abbiamo proposto nei giorni scorsi come altro consumo. Le famiglie indebitate che hanno il mutuo, che hanno dei prestiti fatti in questi mesi in cui un po' l'economia sembrava che tirasse, eccetera eccetera, oggi rischiano di trovarsi sovraindebitate per effetto del fatto che uno dei due coniugi magari perde il lavoro, va in cassa integrazione. In questi casi una misura a costo zero, come è già stato in Francia fatto da decenni, è quello di prevedere delle procedure speciali per questo tipo di famiglie che non riescono più a pagare i debiti, non perché ne hanno fatti troppi, ma perché avendone fatti non sono più in grado di onorarli perché, sì, c'è un evento traumatico, di entrare in una procedura, diciamo fra virgolette, di amministrazione controllata familiare, congelando il pagamento dei debiti e ripianificando il pagamento delle rate in modo lento. Ah, questo è il senso del commissario straordinario, sì, per le famiglie indigenti. Male, sì, infatti io quando l'ho letto ho detto che vuol dire commissario straordinario. Immaginavo. È una cosa molto seria che in Francia funziona molto bene da decenni, e in caso di appunto famiglie indebitate che subiscono dei traumi, che può essere la disoccupazione, ma può essere anche la malattia, può essere il divorzio, la separazione, si trovano in una situazione di insolvenza, che è davvero oggi uno degli scenari più preoccupanti con i quali dovremo fare i conti nei prossimi mesi. Questa mina va disinnescata prevedendo delle procedure che consentano, che è a costo zero per lo Stato, sì, intendiamoci, sì, che consentano a queste famiglie di non essere soggette a procedure di pignoramento, esecutive, perdere i beni o addirittura la casa, e poter ripianificare con calma e nei limiti del possibile il pagamento dei loro, delle proprie dei rate. Loro debiti. No, interessante su questo. Io tra l'altro, Martinello, qua la fermo, vado da, prego, Agostino Megale, e so che la devo salutare anche in anticipo se ci deve lasciare. Per il momento la ringrazio, se può stare con noi ovviamente fino al termine della trasmissione meglio. Agostino Megale, segretario confederale della CGIL, ieri al tavolo con le parti sociali e con il governo, perché c'è anche Angeletti che poco fa ha detto la CGIL ha confermato questo sciopero che è stato proclamato a settembre, quando il mondo era diverso, l'Italia era diversa, insomma dicendo è un errore, ecco. Perché invece la CGIL lo conferma, lo sciopero? Ma se Angeletti ha detto che abbiamo proclamato lo sciopero a settembre, commette un errore. Lo sciopero l'abbiamo proclamato al direttivo di un paio di settimane fa, e le ragioni di questo sciopero sono legate alle proposte che abbiamo avanzato al governo per affrontare la crisi. Proposte che affrontano il problema dell'occupazione, la tutela dell'occupazione nella crisi, degli ammortizzatori sociali e del sostegno ai redditi per una vera terapia antirecessiva. Ora, noi faremo la conferenza stampa oggi pomeriggio, e oggi pomeriggio, diciamo, trarremo prime valutazioni. Sì. Quel che mi pare evidente è che rispetto all'incontro di ieri sera, è importante che l'incontro si è svolto e che si è attivato un tavolo, e sarebbe importante che il tavolo non si esaurisca a ieri sera. In ogni caso, per quanto riguarda il carattere delle proposte lì avanzate, obiettivamente in questo momento non possono che essere giudicate insufficienti e anche insoddisfacenti. Perché? Perché da un lato non abbiamo, pur avendolo richiesto, la quantificazione delle risorse che si rendono disponibili per una terapia antirecessiva sui redditi e per un'azione sugli ammortizzatori sociali. Dall'altro abbiamo compreso che i vincoli del debito che il governo intende rispettare in questo momento non fanno operare scelte che per esempio in altri paesi, pur avendo un debito diverso come la Gran Bretagna, sono stati assunti decidendo di investire qualcosa come 22 miliardi di euro a sostegno del lavoro e dell'impresa. Il debito purtroppo c'è, Megale, bisogna farne corti, voglio dire. Purtroppo ci mancherebbe altro. Siamo un paese con un debito pubblico devastante. Ci mancherebbe altro, lo dice uno che sulla questione del rigore e del risanamento ha non un occhio ma 12 occhi attenti. Però insisto, vi è la necessità adesso di aprire qualche elemento di flessibilità. Ed è questa la ragione per la quale abbiamo riconfermato ieri sera la necessità di un'azione forte sulla detassazione delle tredicesime, capace di recuperare il mancato fiscal drag. Ricordo a tutti che nel 2008 è mediamente 360 euro che i lavoratori perdono a fronte di un'alta inflazione e di una mancata restituzione fiscale. In più è necessario che dal 2009 questi interventi diventino strutturali. È vero che quando mi faccio solo finire questo. No, ma le volevo chiedere sul fiscal drag, perché è vero che ieri Epifani ha tirato fuori questa vicenda e Berlusconi gli ha risposto: neanche Prodi l'ha restituito. Mi confermi? E noi abbiamo risposto che proprio per questo a Prodi unitariamente avevamo indetto lo sciopero generale. Cioè è andata così, insomma, e c'è stato questo. Se lo ricorda. Purtroppo, diciamo, adesso questo non siamo stati in grado di farlo, ma il tempo porterà consiglio. E quel che volevo aggiungere è che in questo senso abbiamo ribadito la necessità nella crisi di sospendere le misure di detassazione dello straordinario e utilizzare quelle cifre per coprire i lavoratori che non hanno nessuna tutela e nessuna ammortizzatore. E su questo si fermi. Ora, in conclusione, sì, lo sciopero è uno strumento per raggiungere gli obiettivi. Andiamo a Roma da Stefano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno dottor Milan. Senta, io vorrei fare una domanda al dottor Angeletti, non so se è ancora presente. Sì, sì. Ecco, però non mi spiego molto bene i motivi del contendere tra le varie organizzazioni sindacali e mi chiedo se non siano squisitamente politici, perché in realtà, almeno dal mio punto di vista, un inglese direbbe from my chair here, cioè dalla mia sedia, non vedo francamente una proposta concreta, soprattutto per far uscire dalla crisi tante famiglie che non sono indigenti, ma che sono le famiglie che sono sul reddito medio o medio basso, che mandano i figli all'università, che comprano una casa, che hanno un certo livello di consumi, che sono viste le retribuzioni ferme da 15 anni. Un grosso salto di qualità all'indietro sul piano del potere d'acquisto dopo l'entrata in vigore dell'euro e sono considerate ancora famiglie benestanti. Insomma, vede pochi programmi, poche cose concrete e tanta litigiosità. Poi vado da Cazzola, però Angeletti risponda a Stefano da Roma che gli ha fatto. Le rispondo velocemente. Il vero contrasto tra noi e la CGIL deriva su una cosa per il pubblico grandemente sconosciuta, che è il modello contrattuale. Noi abbiamo cominciato a litigare quando la CGIL si rifiutava di sottoscrivere un accordo con la Confindustria su un nuovo modello contrattuale di cui non pensiamo di avere bisogno, anzi pensiamo che i lavoratori italiani hanno bisogno. E che dice sconosciuta? È uno dei temi economici, era ironica il suo tema sconosciuto, no? Sì, no, esatto, no, ecco. Sconosciuto perché ormai ovviamente sembra che sia tutta una vicenda politica, ma in realtà i nostri dissensi nascono su questo punto. Noi abbiamo bisogno di un modello contrattuale che faccia aumentare i salari quando aumenta la produttività. Perfetto, sì, che questa è la posizione sulla quale appunto c'è la forte diatriba con la CGIL, tra CGIL e CISL e UIL. Cazzola, la posizione, visto che c'è Megale, la posizione della CGIL è una posizione che lei giudica come? Lei ex CGIL. Ma guardi, io faccio notare una cosa, che la CGIL ha fatto scioperare il pubblico impiego quando il pubblico impiego è l'unico settore che ha il posto di lavoro garantito e che rinnova i contratti, che ha rinnovato i contratti sia pure con un incremento modesto, però insomma è difficile che altri lavoratori italiani abbiano le medesime sicurezze d'ora in avanti. Quindi, insomma, mi pare che questo evento, come pure il confermare lo sciopero del 12, quando per esempio oggi la Confindustria, al tavolo delle trattative, ha confermato le stesse posizioni dei sindacati, no? Intervento dello Stato, posticipo della proroga del finanziamento dei lavori straordinari, concentrazione sulle questioni della produttività, sia in fondo una scelta che sarebbe rimasta anche se il governo avesse fatto delle concessioni diverse. E comunque la trattativa è aperta, mai dire mai, è giusto che il governo metta sul tavolo anche delle cifre, però mi pare che oggi ci sia una situazione nella quale tutti reclamano, tutti protestano per i tagli, tutti reclamano e sia molto difficile individuare delle priorità. Per esempio l'ascoltatore di prima pone un'esigenza dal suo punto di vista assolutamente vera e comprensibile. Però ecco, da questo punto di vista io credo che un governo debba dire a questi settori sociali, come sono quelli rappresentati da questo lavoratore, che in questa fase devono cercare di arrangiarsi, devono cercare di cavarsela un pochino anche da sola, perché in una situazione di difficoltà bisogna pensare a chi sta peggio, bisogna pensare a chi perde il lavoro, bisogna pensare a chi il lavoro non ha, bisogna pensare a chi ha bisogno di essere incluso nella società. Megale, la CGIL, che è il più grande sindacato in termini numerici italiano, non sente però, secondo lei, non c'è un po' una sensazione di isolamento anche dalle altre sigle sindacali in questo momento all'interno della CGIL? Intanto quello sull'ascoltatore che ha messo in evidenza come sono difficilmente comprensibili le divisioni tra i sindacati, vorrei aggiungere semplicemente che per quanto ci riguarda non smetteremo mai di batterci per riconquistare l'unità del sindacato, perché il sindacato unito è ciò che vogliono i lavoratori ed è ciò che produce anche risultati migliori per i lavoratori. Nelle condizioni specifiche quel che si è prodotto non sono tanto divisioni riconducibili a ragioni politiche di appartenenza. In effetti c'è un giudizio diverso sull'evoluzione della trattativa del modello contrattuale. Noi pensiamo che le soluzioni di cui parlava prima anche Angeletti rischiano di produrre una riduzione del potere d'acquisto dei salari e pensiamo che tutti insieme avevamo convenuto invece che una riforma deve aumentare i salari e aumentare la produttività. E comunque diciamo che nella crisi la priorità non è la riforma delle regole, ma semmai è proprio un tavolo per affrontare l'emergenza crisi e poi affrontare anche questo e vedremo successivamente. Secondo, io penso che le ragioni che ci hanno indotto anche nel pubblico impiego ad uno sciopero sono conosciute e riguardano un accordo separato proprio sul tema dei contratti dei pubblici dipendenti, che tra l'altro prima o poi bisognerà decidere in una democrazia normale se si realizzano accordi in cui la maggiore organizzazione sindacale esprime punti di vista diversi. Ci vorrà un metodo per risolvere questo elemento. Il metodo migliore sarebbe che i lavoratori votano e decidono, e a quel punto sul voto dei lavoratori sì, ci adegueremmo noi o si adeguano gli altri, ma in ogni caso ci vuole una regola democratica che ponga, diciamo, in essere le normali condizioni di rappresentanza e di rappresentatività. In ultimo vorrei sia breve in quest'ultimo perché sto chiudendo. Vorrei ribadire che l'emergenza continua a essere quella di dare una risposta ai giovani precari senza tutela che rischiano di perdere il posto di lavoro e di dare una risposta efficace al sostegno ai redditi di lavoratori e pensionati. Ecco, qui effettivamente bisogna vedere la quantità delle misure che finora non sono state. E questo vedremo nei prossimi giorni ovviamente. Io mi fermo ringraziando tutti in redazione, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli, Giorgio Matè in regia. Scriveteci, viva voce @radio24.it. A domattina. Viva voce.